Claudio. Claudio, ci sei? Claudio. Chi è? Claudio, ciao qua. Oi, ma dove abbiamo andato il messaggio? No, no, assolutamente. Oh, era il messaggio stamattina. Non lo neanche della Juve, però non si è presentato, non ho capito chi era. No, no, no. E poi ci sarebbe stato il mio corso, il mio nome, no, non è un problema. Ebbene, come va? E come voglio fare? No, va bene. Poveruccio, la partita comparata mi pareva, ma... Sì, lui è troppo forte, ma dite, dai, la Juve è ancora lontano, e vince la Coppa. Lui, lascia perdere. No, ma la cosa che mi stupisce tantissimo che un bel primo tempo, insomma, un tomato da una parte all'altra sull'1-1. Secondo tempo sono usciti dagli spogliatoi che, cioè, la Juve è rimasta a guardare. Sembra che negli spogliatoi qualcuno abbia detto: signori, fermatevi perché deve vincere Real Madrid. Cioè, proprio un Di Mara, un Higuaín, cioè, quello che si è fatto un muro è stato un Mandzukic e basta, gli altri completamente assenti. Sì, tutti quanti, in effetti, tutta la difesa al completo. Hanno preso 4 gol, cosa che non hanno preso in tutto il torneo. Ne hanno preso 3 in tutto il torneo e ne hanno preso 4 in quella partita. A proposito, come sta uscendo? Bene, bene, 9-20 abbondante, guardate, va bene. Sì, ma infatti la perplessità a livello sportivo, non da Juventino, è che sia successo qualcosa dentro lo spogliatoio, perché è impossibile una squadra campione d'Italia che ha domato il campionato, che ha vinto la Coppa Italia, non ha sbagliato niente, va a giocarsi una finale di Champions, e ripeto, un primo tempo va bene. Che al secondo tempo rimani fermo e prendi 3 gol, cioè mi comprendi? Sì, lo so, il primo tempo diciamo che gliel'hanno fatto bello, anche se devo dire che probabilmente era una tattica del Real Madrid che ha cercato di far andare avanti la Juve per farla tancare il secondo tempo, infatti poi non aveva più fiato e dunque non aveva più possibilità di giocare come si fa a giocare, non ce la facevano più, erano stanchi. Ma la squadra sono rimasto veramente molto deluso perché è stata una partita preparata, una partita un po' con Real Madrid, secondo me non è assolutamente da temere, perché il Barcellona ha buscato sia l'andata che al ritorno, ma vedendo una Juve molto aggressiva, molto compatta, molto serena, ma c'è stato qualcosa che non mi ha convinto veramente, lo dico da sportivo, veramente, cioè all'uscita dagli spogliatoi la squadra è rimasta a guardare come se qualcuno, ti ripeto, l'abbia detto dentro gli spogliatoi: signori belli, toccatevi, rimanete in attesa del pallone, giocate, però deve vincere il Madrid. Cioè, a questi livelli io ho pensato a tutte le mani, perché è impossibile vedere una Juve così scomposta, così disattenta, così ferma, non c'è stata un'azione, nulla, zero. Infatti così, infatti loro nel primo tempo hanno fatto un'azione e un gol, mentre invece la Juve ha fatto 8 tiri in porta, ha fatto nel primo tempo, ma poi non ha fatto più niente. No, t'hanno sovrastato sul piano fisico, sul piano tecnico e anche sul piano dell'intelligenza, dai, e la Madrid è esperta e non c'è da fare. Comunque non è che ci possiamo lamentare, ha fatto una buona stagione la Juve, tranquilla, no? Adesso vediamo un po' il prossimo anno che cosa succederà, però ce l'ha sangue la Juve, non ne vince mai questa Coppa Campioni, non è possibile. Cioè pesi un sacco di miliardi per avere una squadra da Champions, alla finale Higuaín poteva fare il guardialine, non ha giocato, Di Bala lo stesso, non c'era, ripeto, mi è piaciuto molto Mandzukic, a prescindere dal gol, però saliva, scendeva, era sempre un po' Dani Alves, però sono gli altri, poi mi ha messo a che dita, quando mai uno è rimasto infortunato, si ha fatto l'ultima partita di campionato, tu me lo metti alla finale di Champions, non mi metti a Marchisio. Hai visto con Marchisio quei pochi minuti che è entrato, come ha cambiato subito il centrocampo. No, io non ho italiano, dunque. Buffon, consentimi di dirlo, sarà il numero uno dei portieri, per me ha finito, perché ha preso un gol, era imprendibile, ma gli altri tre erano tranquillamente, si potevano parare, tranquillamente. Sì, ma a loro due li potevo parare, secondo me. Ma Buffon, io l'ho detto già da tempo che non è più un Buffon di una volta, facciamo stare, Buffon ormai si deve ritirare, basta, deve lasciare spazio agli altri. Ma la Juve sta contattando cosa? Sta contattando il portiere a Roma, Chiesni, quello sta contattando, quello è bravo, mi riesce a prenderlo, io a me mi piace Chiesni. Sì, a me mi piace più Donnarumma e Sirigu. Però Donnarumma ha già detto che rimane al Milan perché vuole crescere col Milan e far crescere il Milan soprattutto. Aveva 18 anni, 4 milioni di euro a stagione, sopra il tavolo, a 18 anni non sono pochi. Non sono pochi. La Juve fa proprio la sofferta, ne vuole dare 6, ma non la può vedere la Juve Donnarumma, capito? No, ma ha dichiarato, non so se l'ho letto il Corriere stamattina, ha dichiarato Buffon che gioca tutto il 2018, finiti i mondiali si ritira, noi perdiamo i mondiali, tranquillo. Non so, lui ormai non si vuole attaccare, non si vuole, però a quel punto lì secondo me la Juve anche che potrebbe un po' ridimensionare, ascolta un attimino per cortesia, sì, grande portiere, grande riconoscimento, hai fatto quello che hai fatto la storia della Juve, hai fatto tutto quello che vuoi, però a questo punto secondo me la Juve deve cercare di prendere un altro portiere, anche per il futuro, perché ha messo a bisogno che anche il prossimo anno in maniera discreta, e poi cosa fa? Ha trovato un portiere di classe, non è semplice, sta pensando di prendere il portiere della strada, anche Meret, anche quello è bravo, è come Donnarumma quello, Sì, guarda, io a questo punto è possibile che ieri Cornetto, molto più giovane di lui, quell'allungo che ha fatto di quel raso terra che ha tirato, si è segnato da 30 metri, quello era arrabilissimo, non ce la fa più allungarsi, a 40 anni, ma ne voglio andare, a 40 anni, la stessa storia di Zoff, di Cudicini, di mentre si chiama, un portiere va via l'Inter, di Zega si chiama, mi pare. Poi, a quell'età devi ritirare, devi avere spazio giovane, perché il portiere deve essere anche veloce negli spostamenti di porta e allungarsi come si deve allungare. Era una ghita, dolore di anche, poi va via, dolore di braccia, ma di cui andare? Ma io l'ho sempre detto, per me è troppo lento nel mutarsi, nel tuffarsi, è troppo lento, perché se no più di uno ne avrebbe salvato lì il pallone, invece purtroppo così, pure questo fatto che non esce mai, non esce, ma quando mai un portiere non deve essere pallone nell'area di porta almeno, non dico nell'area di rigore, ma almeno nell'area di porta deve essere, invece ha preso un sacco di gol tutti su calcio d'angolo così, il portiere deve essere lui il pallone nell'area di porta, perché ha la possibilità di intervenire con le mani, lui è alto, non è a dire che è anche basso, è anche alto tra l'altro, ma rimane secco e presa in porta, non si muove, quando respinge davanti all'area di rigore così, ma buttala fuori, buttala in calcio d'angolo, buttala dove ti pare di piace, ma non così come fa lui, no, ma è finito, secondo me è finito, dai. Non è più da Juve, ecco, sarà ancora bravo, ma non è più da Juve. No, ma per me non è neanche più bravo, no? Ancora il 50% di attività, ma ha perso tantissimo, ripeto, io manco il quarto gol, ho visto, io sul 2-1 ancora la stavo guardando, forse pareggiano, forse si scendono in usorno, forse qui, forse là, mentre giù ha rimediato il terzo gol, 3-1, ho spento proprio la televisione, poi mia figlia ha detto che ne avevano preso 4, cioè, ma come ti vai tu a fare un ciambo del genere, a entrare a Quadrado e giocare per 4 minuti, quasi, in 10, no? Ma quello fa l'espulsione, secondo te, no? In effetti no, Torino, la quarta Tomà, l'abito lì non doveva essere, perché non era da essere. Io capisco magari la prima munizione che ha fatto, ma la seconda proprio non doveva, anche perché sapendo appena entrato questo lo butto fuori, come finita la partita lo sarei buttato fuori, ci volevano pochi minuti a finire. C'è un abito poco diciamo maglianimo, ecco, è stato un pochino troppo deciso, no? Tante volte ci sono dei falli proprio da punire e non li ha puniti, ha limato, tante volte l'hanno buttato per terra eppure non ha mai rischiato le punizioni, ma quando mai? No? A parte il fatto che di Bala non aveva dormito, i guaini lo stesso, tutti erano addormentati, non lo so per quale motivo, so solo che non era la giornata della Juve ieri, tutti erano spaventati, che ne so. C'è qualche commento sul Corriere, ho detto stamattina, questo campo chiuso, capito? Completamente chiuso, tutti si sono visti un po' così, la Juventus è così brutta, io non l'ho mai vista in... mai. No, è anche vero che Real Madrid può giocare in campo chiuso, forse loro perché sono abituati, il Bernabéu è un campo tipo quello, non lo so, ma il fatto che un primo tempo iniziale è abbastanza veloce, abbastanza, insomma, va bene, metà del primo tempo hanno già calato, meno male, erano sull'1-1, ho detto, ma forse si sveglieranno un po' al secondo tempo, sono entrato nel secondo tempo e è finita la partita, proprio completamente... Vaccati in Sassarese, ho capito, Vaccati proprio, cioè non gli hanno fatto toccare palla, nessuna azione, nulla, Marcello l'ha fatto Burgeggio a Alessandro, ho capito, non so. Sì, non ma sul piano fisico soprattutto sono più furti, dai, è un'altra classe hanno, non c'è stata esperienza, nel resto hanno fatto 15 finali, hanno vinto 12, cazzo, non te ne rendi conto, allora la squadra non è ogni aggiuncia, non è una squadra così da poco, e gli avversari davanti a loro si ridimensionano molto, puoi essere forte quanto vuoi, ma davanti a quelli sono troppo forti, sono troppo esperti, gente di classe, poi c'è quel mostro in attacco, per carità, quello vale per tre noi giocatori normali, vale come minimo, è un dio quello, è poco, è forte. Lo so, Ronaldo, però bastava marcare un po' più a uomo, perché ripeto, ha fatto quello che ha voluto in aria e fuori aria. Ciò che ha fatto era molto bello. No, io ricordo sempre la partita con Barcellona non è l'ultima squadra arrivata, c'è un grande giocatore lo stesso e non uno, più di uno, eppure ha buscato sia l'andata che il ritorno, perché la Juve aveva la testa e il gioco soprattutto. Noghi, ripeto, una partita quasi comprata, capito? Una squadra che esce dagli spogliatoi e non ha toccato palla, non è dalla Juve, perché il primo tempo la Juve lo fa, il secondo tempo viene mattata forte da Allegri, si sceglie dallo giorno. No, Inoghi sembra che qualcuno abbia detto, ritiratevi perché la Coppa la deve vincere Real Madrid, ha fatto questa cultura quadrata senza pannuta, ne ha morito 4 della Juventus, Munire era il fallo di Pjanic, Munire era il fallo di Flores, di Alessandro, da Munire, non ne va pronta, scusa, la munizione quando ci vai è pesante, ma un pezzone così in un contrasto, non so, per me non era Munire, ma poi l'ha detto anche il lì alla ma premium, perché me l'ha guardata premium, c'era Cesare che ha detto assolutamente un arbitraggio scorrettissimo, un arbitraggio non uniforme a una finale di Champions, Cesari non è l'ultimo arrivato, gli altri è bravissimo, quindi vabbè. Lo sai cos'è, quando una squadra è forte ha tutti i vantaggi, anche quelli un po' dell'ambito, se vogliamo. Basta pensare cosa è successo con Bayern, è fatto un po', dovevo fuori gioco l'andata, dove andavo di più. Vabbè, comunque la Juve, non lo so, non riesce mai a perdere, 21 anni senza vincere questa coppa, questa benedetta coppa. Non è possibile, a meno che non erano già stati di vittorie, visto che avevano vinto la Coppa Italia, il campionato, e che ne so, però si dovrebbero dare una mossa in più, non sono stato per niente contento. Primo tempo bene o male, c'è stata quella rovesciata di Mandzukic che ha rimesso in parità il risultato, però anche quello, se vogliamo, quello la rovesciata, ma non è che l'ha tirata per andare in porta, gli è andata bene, tutto sommato, bisogna riconoscere anche questo, io l'ho preso così. Ho giro un vaso del 62 che non vi riesci mai a camicia di cuglia, perché la palla è scesa tra le croce e le palle e la traversa e non è riuscito a prenderla. Un po' di fortuna, va bene. Mi ricordo che sulla punizione di Dybala, che Dybala punizione così non l'ho mai visto tirare, ha sempre tirato col mancino a scendere, a sollevare e a scendere, ha tirato questa munizione dentro la barriera, e lì Ronaldo l'hanno fatto vedere, c'era il fallo di mano, c'era il rigore, non ce l'hanno dato. Quindi se vanno sul 2-1 al primo tempo, non lo so come si mette la partita, capito? Cioè, ti giuro Giulio, io l'ho pensata in tutte le maniere, per me una partita comprata, una partita dove qualcuno abbia detto oh, bisogna fare così, così e così, sai, una partita ai tempi di Mujica, non riesce a comprendere questa partita, 4 ammoniti, uno espulso, senza vannuta, il rigore non dato, secondo tempo fantasmi, proprio aspettando che segnassero. Se tu guardi dopo la partita, non so se la fanno rivedere, forse la fanno rivedere oggi a Premium, non so, da qualche parte a Sport 2, adesso non mi ricordo, perché hanno detto che se tu riguardi la partita, guardati il secondo tempo solo, aspettavano solo che loro andassero avanti per fare gol, cioè, nessun contratto, nessuna azione, nulla, difesa a farfalle, la miglior difesa d'Europa, non ci voglio credere. Si vede che nell'intervallo che stanno preso magari un tè, e quel tè anche che 2 anni gli ha addormentati, l'avrebbe posto un po' di sonnifero, dentro a quel tè che era stato, non è paziente come ci vuoi fare. Non hanno visto, avevano 350.000 euro, avevano in premio, vabbè, ma quindi ne avevo 1,5 milioni a testa, sempre a testa, per ogni giocatore che vinceva. Lo immagina, vediamo di Dio, è ricchissimo, per cui non c'è niente da fare, no. Sono furti comunque, sono molto molto furti, quando sono in giornata non c'è niente da fare, e nessuno, io sono convintissimo, il Barcellona che è una grandissima squadra, ma quando sono in forma, Real Madrid e Barcellona, tutti e due a confronto, Real Madrid è sempre più forte, è troppo forte, perché c'è Cristiano Ronaldo che è un demonio, e per me è meglio di Messi, io l'ho sempre detto, mi è sempre piaciuto di più di Messi. Messi è un altro tipo di giocatore, ma lui è quello che lui ha fatto 35 gol in coso mi ha fatto in Champions League, ma te ne rendi conto? Sai che ha fatto il campionato, sai quanto ha fatto il campionato, fatto la Madrid ha visto il campionato spagnolo. Ho capito Giulio, però io rimango con questa perplessità, perché non si può entrare in spogliatoi con un pareggio voluto, perché l'hanno giocato molto bene a primo tempo, al secondo tempo sai che stai pareggiando, non ti giochi la carta proprio di rubori, nulla, ma la vita guaira sempre fermo, hai il campionato, scendeva, saliva, di mala, contratti, anche Dani Alves, anche Alessandro, anche il caputo era meglio Cosio, Rick Steiner, cosa vuoi ti dica? Non so cosa dirti, fa fatto che l'hanno persa, questa è la quinta volta, la quinta finale che fanno, quindi la quinta volta che non riesci a fare la finale, non riesci a vincere la coppa, sempre per il Real Madrid, lo Barcellona, Uruguay. È andata così, pazienza, però ti ripeto, sono molto deluso come Juventino, perché una squadra del genere che ha domato il campionato, ti ripeto, ha vinto la Coppa Italia, è stata la miglior difesa di tutto la Serie A, vai a prendere 4 gol in campo neutro, non c'è la scusa che stavano giocando nel campo del Real Madrid, no, possiamo tirare fuori la scusa che il campo era chiuso, quindi ti mancava l'aria, se ti manca l'aria ti butti l'ossigeno, giochi con l'ossigeno. Se ti una bomba d'ossigeno, vabbè, cosa ho fatto? Allora, la Juve ha fatto 5, 9 partite, 9 finali ha fatto la Juve, e ne ha perso 7, 2 più 2 per 2 miracolo, ne ha vinto, però ne ha perso 7 in tutta la sua storia, 9 finali ha fatto, ne ha perso 7, invece il Real Madrid ne ha fatto 15 finali e ne ha vinto 12, ascolta che è fatto di differenza, ora è tutta un'altra storia. Poi Higuaín lo stesso in campo internazionale non fa niente, ma anche in nazionale quando gioca con l'Argentina fa quasi niente, sono giocatori normali che non riescono a incidere, capito? È lo stesso Dybala, tutto quello che vuoi, ma quando arrivi a diventare Messi, loro vogliono paragonare a Messi, ma quando è che arriva a diventare Messi? Mai ci arriverà. Giulia, mi ricordo le parole di Marotta, che avevano incomparato a Higuaín, con chi era che l'aveva fatto, l'ultimo Higuaín, che era riuscito ad avere la squadra competitiva per la Champions, e quest'anno era l'anno della Champions, e gliela Juventus, non ha toccato palla. Ma diciamo che loro sono contenti che arrivi almeno, se quando dice quando arrivi in finale, la finale si può vincere, si può perdere, certo, ma anche voi sarete il BVP, non arrivi sempre a perdere. Comunque bene o male 133 milioni ha incassato la Juve da questa Champions, per cui ha fatto tutto. Adesso vediamo cosa compra, sta prendendo questo Diego Costa, se lo prende, vediamo un po'. Vuole prendere e vuole prendere Matuidi, vuole prendere Tolisso, ma ancora non piace nessuno, vuole mandare Tiglia, vediamo bene che riescano. Io sono sempre dell'idea che bisogna fare il centrocampo forte, quando il centrocampo forte è il cuore della squadra, quando c'è gente forte al centrocampo la squadra avversaria deve soffrire, ma soffrire veramente, invece la Juve non è al centrocampo, là. Chita cos'è? Torna un attaccante? Sì. Chita, un attaccante? E chi? Non ho capito, chi? Chita, sì, e allora, è un'ala di sinistra, e allora, sì, è forte, quello è forte, però bisogna vedere quanto rende, ci vuole gente come si deve, gente abituata a fare questi tornei, non a giocare solamente nel campionato o nazionale o italiano o francese, ci vuole gente abituata a giocare in campo internazionale veramente. Dovremmo vedere cosa succede. Non succede la Reiton, mattina. A che dica fosse un mocio. Un mocio era. Il fortunato ha fatto le ultime due partite di campionato. Giusto per riprendersi mi mette a che dire. C'era Reiton, Marchisio. Ma veramente io non lo capisco. Non lo capisco. Chi ha di balla che non se l'ha bucato subito, non so se c'è la piazza disponibile o quell'altro giovane attaccante, perché non ha messo uno di loro, visto che di balla non stava girando, non stava facendo, no? Non gli compresso, magari segnava pure. Chi lo sa, alla fine ti ha messo l'Elena che lo sta anche prendendo, tra l'altro aiuto, si può immaginare, e mi vuole l'Elena, erano gli ultimi minuti quando era tolto la di balla. Sì, diciamo che è un discreto giocatore, ma non è un campione, ci vogliono campioni, per vincere quelle manifestazioni così, ci vogliono grandi campioni, gente esperta, gente veramente con tanto di prepotenza fisica soprattutto. Invece, grande giocatore, indubbiamente un gran giocatore, però è troppo piccolo, quando soffia vento quando c'è il vento si rovescia, va a pagare, dai, dai. Tu questi giochetti che fa, questi passaggi corti, corti, ma no, no, bisogna andare avanti, non indietro. Ciccio, la palla gli ha sbagliato di palla ieri, Santa Fe, anche Guarini ha sbagliato, tutti hanno sbagliato, tutti. Ti ho detto che io sul 2-1 ho resistito, ma qua, ragazzi, che pareggia, diciamo, come ha disegnato lo terzo gol, 3-1, mamma mia, ti ho detto, boh, chiudami tutto, finito, finito, mancavano 8 minuti, mi sembra, 8 minuti o 6 minuti, ti ho detto, e cosa fate lì? Fatene due gol al Real Madrid in 8 minuti, chiuda tutto. Mi stavo correggendo mia figlia, che non c'era, mi ha mandato un messaggio, papà 4, e gli ha detto, buro 5, boh, io sul 3-1 ho spento tutto, non ho avuto né guardare né premiazione, nulla. Dio mi ha girato la scatola, perché una squadra così forte, ti ripeto, ribadisco, che ha dominato sia il campionato che Coppa Italia, ha subito pochissimi gol, ne ha fatto tantissimi, perché è arrivata a 90, quanto ha fatto 92 punti, cioè Andy ha fatto in là 4 gol con Barzagli, Borucci e Chiellini in difesa, ma non ci voglio credere. Purtroppo è così, non so. Però bisogna considerare l'attacco anche della cosa, perché i giocatori come Isco, Benzema, Cristiano Ronaldo, tutta l'Italia dentro, oppure Pieri quando poi l'ha messo, l'ha cambiato. Insomma, sono grandi fuori classe, sono tutti fuori classe quelli. Noi sì, difesa, sì, forte, 4 gol, però sono dei bravissimi difensori, ma non sono dei fuori classe come difensori. Non è un Marcello, Barzagli, a parte il discorso che è molto più anziano, eccetera, no? E l'altro che c'era dall'altra parte, il capitano, come si chiama, che non me lo ricordo nemmeno. Sono gente esperta, gente forte, fisicamente, tecnicamente, e soprattutto sempre affamata. Sergio Ramos, allora, è un campione quello lì, è un gran giocatore, è pesante, ma è nei giusti voli però, sì, tutto quello che vuoi, l'ha ammonito, quello che vuoi, però tutto è esperienza, tutto questo è esperienza. È brutta la digerire, ripeto, sia la sportiva che la Juventino, io non mi sarei mai aspettato una Juve così morta, così proprio, ripeto, sembra che qualcuno gli abbia detto non giocate, deve vincere a Madrid, proprio si sono accasciati, non è arrivato Giungo, non è arrivato Unta, ripeto, un bel primo tempo, sofferto, ma insomma, da ambedue le parti, perché è stato un bel primo tempo, non bellissimo, ma bello, diciamo bello, ma potevano fare di meglio. Ma il momento c'è entrato al secondo tempo, mi hanno pigliato il terzo gol, ma ci ho detto, cosa sta succedendo qua? È allucinante, Brucci assente, Chiellini, vera e non vera, Barzagli, cosa ha fatto? Quanti contratti ha fatto Barzagli? Quante palle ha praticamente salvato? Nulla, ha fatto un gabagà con Marcello. Sì, ma è così, purtroppo, è andata così, pazienza, comunque. Sono contento lo stesso io, perché la stagione gli è stata buona lo stesso, doveva essere migliore, però non ce l'hanno fatta, e a tombe cosa vuol fare? Bisogna riconoscere che quelli hanno giocato meglio e hanno vinto, per quel motivo lì sono superiori, dai, sono superiori. Sai qua, devo lasciare, stavo dicendo, comunque sta andando bene, devo lasciare tutto qua, ho messo, però è bassa, molto bassa, nel senso che a livello terrazzo, per cui la devo mettere ancora in alto, ma a ogni modo, se va bene così, tutto sommato gira la radio. Sì, 9:20 qua, è lo stesso segnale della Mantova, né più né meno. Allora devo dire, già va bene. Sì, la devo mettere in alto, adesso, siccome c'è più in basso di come la prima, per cui, perché nel terrazzo, proprio a livello del pavimento, c'è un metro di più, va bene, va bene, va bene. Poi, era solamente per vedere, comunque va bene, dai. Mentre la mano, guardavo sul cestino in un connettore dove si abita il TL, era quello che c'era rotto e lo devo sostituire. Lo devo andare a cambiare, perché è abita, quello che si abita sulla piazza, e non lo trovo abita, gli altri nodi, quelli con la... mettere a dare e lo può dire quando va bonifica e va bene, ma poi dai qua, dai, ci sentiamo al prossimo, ciao, dai, che mi stanno sentando giù, non so cosa voglio, adesso sento, ciao qua, grazie per la chiacchieratina, dai, al prossimo, ciao. Ciao Giù, buon fine America, buon tutto, già ci sono quelli a Colaghiera, quindi noi quelli a Pannello, ciao, alle prossime, grazie a te per chiacchiere, ciao ciao.